L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Cominciamo questa puntata col festeggiare i 25 anni del Consorzio Italiano Compostatori, il CIC, grazie al cui lavoro in questi anni oltre 65 milioni di tonnellate di rifiuti organici sono state trasformate in 23,5 milioni di tonnellate di compost, con 44 milioni di tonnellate di CO2 equivalente evitate. Diamo il buon pomeriggio quindi al presidente del CIC, Alessandro Canovai, e la prima domanda è ovviamente quella di riepilogarci un po' la situazione di cui avete approfonditamente parlato in un convegno recentemente a Roma. Allora, buongiorno a tutti. I risultati sono brillanti dal punto di vista dell'impegno del nostro consorzio al fine di garantire al nostro paese una funzione che oggi è diventata strategica. Quando iniziamo 25 anni fa non si parlava ancora di green economy, di economie circolari e di quello che oggi è diventato il driver fondamentale un po' per l'umanità. All'epoca, 25 anni fa, era un'attività quasi pionieristica, fino ad arrivare ai giorni nostri con la dote più grande nel mondo delle raccolte differenziate in termini numerici, perché la filiera del biorifiuto rappresenta il 43% del rifiuto raccolto in maniera differenziata nel nostro paese, circa 6 milioni di tonnellate. Faccio un raffronto col mondo delle plastiche, che è altrettanto importante, che ha accumulato 1 milione di tonnellate l'anno. Si parla di volumi diversi, ma i quantitativi servono anche per capire l'importanza di ogni filiera. Tra l'altro mi colpisce perché appunto la vostra è stata una crescita, penso, soprattutto negli ultimi anni. Sì, anche l'anno scorso abbiamo registrato una crescita del 10% e questa crescita mediamente è sempre stata tra il 5 e l'anno scorso appunto dico il 10, superando ogni anno, specie negli ultimi anni, quelle che erano anche le nostre previsioni. Una dote che peraltro è destinata a crescere con lo stesso tasso, diciamo, nei prossimi anni. Tutte queste biomasse ad oggi afferiscono in un sistema impiantistico nazionale che vede circa 300 impianti che trattano questo biorifiuto, sparsi sul territorio nazionale, piccoli e grandi, privati e pubblici. Ricordo che principalmente questo è un settore nato per iniziativa privata e quindi ha anche garantito il concetto di libero mercato, per intendersi. Negli ultimi anni anche le imprese pubbliche si sono molto impegnate in questo settore, ma era, diciamo, vocazione privata. Questi 300 impianti sono principalmente nel nord d'Italia, al centro, sono di dimensioni piccole o grandi o molto grandi, mentre rileviamo, non solo noi ovviamente, sotto gli occhi di tutti, una grave carenza, diciamo, dalla capitale fino a tutto il sud del nostro paese. Questo fa capire che queste sono le aree su cui dovrete lavorare in futuro. Assolutamente sì, gli esempi tecnologici oggi vedono profili tecnologici affidabili. Si è parlato sempre recentemente della possibilità, con una sezione anaerobica, di produrre biometano, essenzialmente metano di origine biologica, per gli usi di trasporto o di vettoriamento all'interno della rete nazionale. Ben più importante, altrettanto importante, il valore del compost, che è carbonio, che va rimesso sui suoli. Ricordo che tutta l'area del Mediterraneo è soggetta a un fenomeno di desertificazione e ultimamente nuova frontiera è quella di estrarre dalle biomasse in arrivo agli impianti di trattamento anche dei composti estratti principalmente o dal biometano o dagli effluenti liquidi, dei composti concentrati per altre applicazioni farmaceutiche piuttosto che nell'industria agroalimentare, perché oggi le tecnologie sono evolute e quindi questo è possibile. Tant'è che si parla di bioraffinerie, ecco, da questo punto di vista. Quindi voi, ho visto, suggerite la realizzazione di almeno 20 nuovi impianti nei prossimi 5 anni. Sì, questa è una stima di quelle che si fanno ai convegni, nel senso che la taglia media è tra i 60 e le 100.000 tonnellate l'anno, 2 milioni, quindi ecco, 2 milioni diviso 100.000 fa 20 impianti. Questo è il semplice calcolo. Poi dove, come, in effetti lì devono intervenire i governi dei territori per decidere e favorire la costruzione di questi impianti. Come i governi dovrebbero intervenire anche sull'utilizzo di tutto ciò che possono produrre le bioraffinerie, no? Come ad esempio vedo il suggerimento degli acquisti verdi della pubblica amministrazione. Ecco, spesso la pubblica amministrazione, che potrebbe, come si può dire, favorire questi percorsi, si dimentica, perché ci sono già dei meccanismi che si chiamano Green Public Procurement, ma vorrei sapere quanti giardini dei comuni italiani usano il compost magari prodotto dai cittadini di quel comune, o magari ci sono aziende agricole pubbliche o enti agronomici, anche loro vorrei sapere se hanno una politica in questo senso, che favorirebbe, ecco, l'utilizzo e la diffusione di un prodotto che comunque viene venduto. Ecco, però, visto che si parla di un interesse comune di tutta la nostra cittadinanza, la parte pubblica potrebbe fare la sua parte. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie molto. Grazie ancora ad Alessandro Canovai. Chiudiamo questa prima parte restando più o meno in tema, perché in settimana infatti si è tenuta l'Assemblea Generale di Cisambiente. E che cos'è? All'interno di Confindustria è una confederazione di imprese di servizi per l'ambiente, nata in tempi molto recenti, e vi aderiscono imprese che si occupano di gestione, smaltimento e trattamento dei rifiuti. A questa assemblea ha partecipato anche il senatore Paolo Arrigoni della Commissione Ambiente del Senato. E per Anna Migliorati, che l'ha incontrato, è stata l'occasione per fare il punto sugli ecoreati. Sentiamo un po'. 2 anni ormai della legge sugli ecoreati. Un primo bilancio positivo o negativo? Diciamo tutto sommato positivo, le associazioni ambientaliste lo definiscono totalmente positivo, in realtà non c'è un'applicazione omogenea da parte degli uffici giudiziari della norma, anche delle agenzie regionali per l'ambiente che sono deputate al controllo, ma anche hanno delle risorse, perché per prevenire e contrastare i reati ambientali servono anche i soldi, la legge è stata emanata ad invarianza finanziaria, però di positivo è che per esempio la Commissione d'inchiesta sulle ecomafie, di cui faccio parte, ha fatto nei mesi scorsi una prima valutazione, senza la pretesa di una valutazione di efficacia della legge. Sono stati raccolti dei dati da parte degli uffici giudiziari, quindi le procure generali della Repubblica, le varie procure, i tribunali, le corti d'appello, raccolti dati anche da parte delle agenzie regionali, da parte delle forze di polizia giudiziaria. Ci sono dei primi indizi, le notizie di reato sono aumentate, e questo può essere sicuramente positivo, così come sono nate anche i procedimenti per l'estinzione dei reati contravvenzionali. Ci sono degli elementi di novità, altre cose che devono accompagnare la legge, che sono per esempio la legge di riordino delle agenzie ambientali, e quello che è emerso da una verifica di questi mesi è comunque la necessità di un coordinamento, di una cooperazione tra i vari soggetti deputati a prevenire e contrastare i reati ambientali, quindi un coordinamento tra le procure, le forze di polizia giudiziaria e le agenzie ambientali, questo è importante. Ci sono già degli esempi positivi di protocolli di cooperazione. Quali sono i reati che stanno maggiormente emergendo? Sicuramente il reato di inquinamento ambientale, ma anche c'è qualche numero interessante sul disastro ambientale, ecco, questi sono i due. La fattispecie però di estinzione delle contravvenzioni ambientali è sicuramente di interesse, perché attraverso la prescrizione si consente anche il ripristino dello stato dei luoghi, quindi anche questa è una cosa importante introdotta nella legge. E questo nello specifico va a introdurre un nuovo titolo nel testo unico ambientale. Come hanno preso le imprese la nuova legge? Dopo 2 anni il rapporto è positivo? Io penso che sia stato accolto in modo positivo, ovviamente qualche pregiudizio iniziale è anche ragionevole, io penso che possa rappresentare anche una garanzia. e quindi secondo me le attività economiche devono sentirsi sicure. Certo è che questa è una legge che è nata, che aveva sul panorama lo scenario della Terra dei Fuochi in Campania. Detto questo, non può passare il concetto che tutte le imprese sono criminali, sono contro l'ambiente. Ecco, diceva lei, questa è la legge della Terra dei Fuochi, e in qualche modo è stata vissuta così. Due anni dopo, la mappa degli ecoreati si ridisegna o è ancora localizzata in alcune parti? Diciamo che è partita guardando a riferimento il problema della Terra dei Fuochi, ma c'è la consapevolezza, non ora ma già da prima, che comunque tutto il territorio del paese ha registrato nel corso degli ultimi anni, degli ultimi decenni, dei problemi seri, insomma. Però bisogna guardare avanti e penso che questa legge possa contribuire a salvaguardare questo bene giuridico importante che è appunto l'ambiente. Grazie ad Anna Migliorati per il contributo e l'intervista al senatore Arrigoni. Facciamo una pausa e torniamo tra poco. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Voltiamo pagina per questa seconda parte dell'altro pianeta. Parliamo di bacche di goji. Cosa se ne sa di solito, oltre al fatto che vanno molto di moda e che avrebbero straordinarie proprietà nutritive, che vengono dall'Asia, almeno fino a qualche tempo fa però, perché ora si coltivano con successo in Italia, il primo paese in Europa in cui si coltivano. Le ha messe in produzione un'azienda agropastorale calabrese, Favella Group, nella piana di Sibari, sotto il controllo della Università di Perugia. Sentiremo quale tipo di controllo. Ne parliamo con Nicola Rizzo, che guida il gruppo. Noi abbiamo cominciato a ragionare su prodotti diversi, diciamo, da quelli tradizionali nel 2009, cioè ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo detto che i prodotti tradizionali agricoli fanno sempre più fatica, dobbiamo cercare delle nicchie che ci consentano di avere anche delle remunerazioni diverse e delle marginalità che ormai in campo agricolo, almeno per la frutta tradizionale, gli ortaggi tradizionali, è quasi scomparsa. E quindi abbiamo preso alcune piante e le abbiamo provate. Tra queste piante ovviamente c'era il goji, la moringoleifera, il finger lime, che poi sono i tre prodotti sui quali oggi noi ci stiamo concentrando. Per quanto riguarda in particolare il goji, abbiamo per tre anni, diciamo, abbiamo cercato di studiare la pianta e capire effettivamente come si ambientava nel nostro territorio. Abbiamo visto che la pianta si ambientava bene, il frutto veniva con una bella colorazione, un gusto piacevole, e quindi diciamo nel 2012 abbiamo fatto un po' la nostra mano di poker, abbiamo detto ok, partiamo, ma se partiamo dobbiamo partire con un numero di piante significativo, perché se vado sul mercato con 1000 vaschette, 2000 vaschette ovviamente non trovo interlocutori perché non riesco ad aprire un mercato, dobbiamo fare uno sforzo, e quindi abbiamo messo le prime 20.000 piante. Cosa c'era lì dove avete messo le piante? Cioè, che coltivazione avete rinunciato? Diciamo? Ma erano delle coltivazioni estensive che servivano per l'alimentazione delle bufale, perché noi abbiamo anche un allevamento bufalino con trasformazione. Abbiamo tolto un po' di estensivi, quindi o silo mais a rotazione, o erba medica, o triticale, quello che di solito utilizziamo per. Tenga conto, tra l'altro, che l'occupazione non è massiva, nel senso che noi abbiamo 4.000 piante per ettaro, quindi 20.000 piante poi rappresentavano 5 ettari, quindi non delle dimensioni tali da sottrarre poi all'alimentazione bufalina un granché. Fatta questa scelta abbiamo appunto messo le prime 20.000 piante e poi abbiamo continuato ad incrementare fino ad arrivare ad oggi a 60.000 piante, di cui 13.000 qui in provincia di Padova, perché volevamo anche una diversificazione territoriale, capire anche nei diversi ambienti come si sviluppava la pianta, e anche per la logistica, che come puoi immaginare è un problema non da poco, e 49.000 piante in Calabria, con 20.000 piante sotto serra fotovoltaica e circa 27-28.000 piante all'esterno. Quindi sono sia allora Padova e Calabria sono le due aree in cui Padova avete è un'azienda terza, mentre invece in Calabria è sui nostri terreni. Quindi, e le serre sono dove? Le serre sono in Calabria, ovviamente sono serre fotovoltaiche, quindi sono in Calabria, sì. Perché questa pianta che tipo di clima ha normalmente? Parliamo di un'apparente stretta del pomodoro, della melanzana, quindi da questo punto di vista si adatta al clima mediterraneo. Tra l'altro, poi ne parleremo più diffusamente, la ricerca dell'Università di Perugia ha dimostrato che anche dal punto di vista nutraceutico o comunque dei valori, sicuramente il clima mediterraneo è quello ideale, sia appunto per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali, sia anche organoletticamente è leggermente più piacevole rispetto già ad una bacca del nord o eventualmente di altri paesi. Senta, questa bacca appunto, che poi è una bacca, anche se noi l'abbiamo sempre vista disidratata di solito, cioè l'abbiamo conosciuta così, invece fresca a che cosa assomiglia, diciamo un po'? Ma una fragolina di bosco, senza ovviamente tutti i piccoli, come dimensione siamo su una fragolina di bosco, con una pelle esterna liscia, con dei semini dentro e diciamo con una piacevolezza, perché a luglio-agosto raggiungiamo 24 anche 25 gradi Brix, quindi parliamo veramente di quasi un dolce. E può essere avvicinata, diciamo, alla famiglia dei frutti di bosco, anche se il retrogusto di aciduro classico dei frutti di bosco ce l'ha in misura minore. Anzi, nei periodi iniziali e finali della maturazione, quindi parliamo dei mesi maggio-giugno, settembre-ottobre, ha quasi un retrogusto un po' di leggermente amarognolo. Ecco. Ma pensate anche di portarle sul mercato fresche, però cosa fate? Già le portiamo. Già le portate? Dove? Sì, noi abbiamo iniziato, una piattaforma ci faceva un po' di grande distribuzione qui in Italia e noi direttamente la Coop Svizzera. E quest'anno, oltre a questo, faremo anche un prodotto bio e quindi andremo con un distributore e una catena italiana anche sul bio. Quindi insomma varie destinazioni, prodotto fresco, succhi. Varie destinazioni, sì, facciamo i succhi, facciamo i sughi, le marmellate, un panettone ci sarà quest'anno, grissini, stiamo suggerendo una pizza al goji con un'importante catena, vediamo se andrà in porto. Una pizza al goji, nel senso che il goji ci sta sopra o sta nell'impasto? Allora, il goji starà come farina nell'impasto, perché per estrarre il succo noi usiamo un estrattore a bassissimi giri, 60 giri minuti. Questo significa non ossidare il prodotto, ovviamente, quindi maggiore qualità e preservare tutte le caratteristiche integre. Dall'estrattore mi esce per un 80% succo, per un 20% diciamo buccia e semi, che sono ricchissimi, la buccia e i semi, proprio di carotenoidi ed in particolare di questa zeaxantina di palmitato, di cui poi parleremo a proposito della ricerca dell'Università di Perugia. Quindi questa pasta, diciamo, che esce dall'estrattore, noi la esticchiamo e diventa una farina che può essere utilizzata per il pane, la pasta. Abbiamo contatti anche con un pastificio che vuole lanciare una linea al goji, quindi ovviamente i possibili modi di utilizzo sono molti. Allora, veniamo alla ricerca di Perugia, soprattutto perché avete poi deciso di mettervi in contatto con una università e far analizzare questo prodotto? Cioè... Allora, ovviamente noi volevamo capire, la Cina spingeva moltissimo ed è stato uno dei motivi per cui noi abbiamo fatto questa scommessa, quindi avevamo qualcuno che spingeva questa bacca e la pubblicizzava, scrivendo di tutto di più. A noi non piace affermare delle cose che non sono provate, mi sembrava che diciamo, su internet si trovasse un po' di tutto, che fosse la panacea di tutti i mali, e quindi eravamo alla ricerca di qualcuno che potesse validare il nostro prodotto, perché poi ovviamente gli ambienti siamo talmente distanti come microclima e come territorio dalla Cina, che bisognava capire se il nostro prodotto avesse migliori o peggiori caratteristiche rispetto a quello cinese, o comunque quali caratteristiche. E incredibilmente ci telefonò l'Università di Perugia, furono loro a contattarci perché stavano facendo proprio una ricerca sul goji, e quindi ovviamente noi non solo abbiamo aderito, ma abbiamo collaborato in maniera fattiva anche cercando del prodotto di altre zone italiane per poter consentire alla ricerca di essere la più completa possibile. E che cosa è emerso fondamentalmente? È che sono stati in linea di massima, anche forse con valori leggermente più alti, rifermate tutte quelle che erano un po' le analisi anche del prodotto cinese, ma con una caratteristica aggiuntiva importantissima: il quantitativo di carotenoidi totali presenti nel goji nostro, in particolare in quello del sud Italia, in generale in quello italiano, quindi con maggiore accentuazione per quello mediterraneo, chiamiamolo così, o calabrese nel nostro caso, leggermente meno, ma comunque in maniera significativa anche per il resto d'Italia, parliamo di contenuti in carotenoidi da 3 a 10 volte superiori rispetto a quelli cinesi. Perché da 3 a 10? Questo è stato, l'Università di Perugia è stata molto attenta, ha preso circa 24 campioni diversi di prodotto cinese, e quindi rispetto ai migliori cinesi parliamo di 2,5-3 in più il quantitativo in carotenoidi, rispetto al peggior prodotto cinese addirittura 10 volte in più. Ma ciò che è ancora più importante è il quantitativo di zeaxantina di palmitato in forma esterificata, che è questa molecola che ha questo, sembra avere per le prove in vitro, questo potere antiproliferativo rispetto alle cellule tumorali, ma questo voglio dire poi magari fase, sì. Anche lo studio, no, leggerò lo studio, perché in vitro questo è stato verificato, stanno iniziando le prove in vivo con i primi ratti, sempre in collaborazione nostra dell'Università di Perugia, stiamo in parte cofinanziando questa sperimentazione, senza dare false speranze perché non è nostra abitudine, ma se dovesse essere confermato, e c'è dell'ottimismo da parte in particolare della professoressa di farmacologia. Vabbè, è giusto, la ricerca va avanti, insomma, sì, è giusto così, insomma, che ci sia sempre una frontiera da raggiungere. Mi resta la curiosità però se è stato indagato questo aspetto sul perché la bacca in Italia si arricchisce di questi elementi che non ci sono in quella asiatica. Dovrebbe chiederla molto più in alto di noi. Questa risposta temo gliela potrà dare forse solo nostro signore. Senta, la ringrazio molto, le ho rubato un sacco di tempo alla fine, ma ha fatto molto piacere, insomma. È stato un piacere per me. Allora, ancora grazie a Nicola Rizzo di Favella Group. Per questa settimana ci fermiamo qui, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.